viole di ricordi, viole, violini al vento di viole di peschi di viole di ricordi, viola, non profana, non sarcofago in memoria di mia vita, insulti tra feci di madri si scomodano, donne all'alba dei rapper infranti, violano, violano, ricordi profanano, sarcofago in memoria mia vita, calce, sputi, insulti, ora giacciono insulti, profeci di madri si scomano, donne all'alba dei rapper infranti. Ali neri dubbi, versi miei, tese, cicatrici alla memoria di luci perdute, valli di lacrime volevano disarmarci, ma stilo bandite, bendate, su fogli di petali neri di sangue di Madonna resurgi, Fenix al plume, volano a maltrattati, scrigni di sogni perduti, leggete il più forte di inchiostro di inno di gioia, di noia, valli nel nulla s'aprono, goia, folle su, elettrificanti torture, resta la mia mente folle, sfoglio sinceri assensi nel mare di lamenti. Violano, viole, viole, ricordano, profanano, sarcofago memorie le mie vita, calci e sputi, insulti, ora giacciono insulti tra feci di madre si scomodano, donne all'alba di rapper infranti, ali nere dubbi, versi miei tesi, cicatrici alla memoria di luci perdute, valli di lacrime volevano disarmarci, ma stilo bandite vendate, fogli di petali neri di sangue di madonne, resurgi tenetris al plume, volano amati maltrattati, scrigni di sogni perduti, leggete il più forte d'inchiostri, inno di gioia e noia, valli nel nulla s'aprono, goia, folle su, elettrificate torture, resta la mia mente folle, sfoglia sinceri assensi di noie, violano, viole di violini, di ricordi profanano, sarcofago memoria, le mie vita calcio sputi, insulti, ora giacciono insulti tra feci di madre si scomodano, donna all'alba di rapper infranti, ali nere dubbi, versi miei tese, cicatrici alla memoria di luci perdute. Banditi lacrime volevano disarmarci, ma stilo bandite, fogli di petali neri di sangue di madonna, resurgi il fenix ad plumen, volano a viole di violini, violano, ricordi profanano, sarcofago e memoria dei nemica, calci e sputi e insulti, ora giacciono insulti tra feci di madre si scordano, donne all'alba dei rapper infranti, alinieri obli, versi miei tesi, cicatrici alla memoria di luci perdute, valli di lacrime volevano disarmarci, ma stilo bandite bendate su fogli di petali neri. Scrivono violano, viole di violini, di ricordi profanano, sarcofago in memoria della mia vita, calci, sputi, insulti, ora giacciono insulti tra feci di madri si scomano, donne all'alba dei rapper infranti, ai miei dobbri, versi miei